La serata nasce in collaborazione con Archi Bologna, con il Circolo Ex Witness Journal e una serie di fotografi e fotografi che hanno pensato di supportare il lavoro dei colleghi e colleghe in Palestina che stanno raccontando l'aggressione israeliana nella striscia di Gaza e anche in Cisgiordania. La situazione è, come ben sappiamo, è veramente molto difficile e soprattutto nella striscia di Gaza non ci sono fotografi e fotografe internazionali, perché ovviamente Israele nega l'accesso ai giornalisti stranieri, e quindi coloro che stanno raccontando la guerra, che è praticamente sulle loro spalle, sono appunto fotografi e fotografe palestinesi. La serata sarà composta da un dibattito, una chiacchiera sull'informazione, sulla fotografia, su questo argomento, e ci sarà un intervento di Cosimo Caridi, che è un giornalista che da anni segue il conflitto israelo-palestinese, e soprattutto si potranno acquistare fotografie che andranno appunto a sostenere il lavoro di un collettivo che si chiama Active Steels, che è un collettivo di fotografi israeliani e palestinesi che da anni documenta l'occupazione, l'apartheid e la violenza israeliana danni al popolo palestinese. In particolar modo servirà per aiutare un fotografo del collettivo che ha perso la casa durante un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza. Quindi sì, ci sarà anche un mercatino appunto fotografico solidale, e proprio su quest'ultima cosa che dicevi, i fotografi e i giornalisti stanno pagando a caro prezzo appunto il loro lavoro, il tentativo di documentare quello che sta accadendo. Sì, è un dato impressionante. Al 9 dicembre sono almeno 73 giornalisti e gli operatori dei media uccisi nel conflitto, di cui 56 palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi, questo secondo il Committee to Protect Journalists. E poi oltre ci sono anche dei dispersi. È un dato impressionante, soprattutto è un dato che non riesce neanche questo a suscitare una reazione ferma neanche da parte delle associazioni di categorie, penso all'ordine dei giornalisti o anche appunto gli stessi giornali, che appunto dovrebbero essere maggiormente sensibili all'uccisione di decine e decine dei loro colleghi e colleghe. Quindi è una giornata che vuole un po' anche parlare di questo, parlare del ruolo dell'informazione e della fotografia all'interno di un conflitto e di un'aggressione come quella in atto, e sostenere concretamente anche il lavoro di chi rischia la vita ogni giorno per poter raccontare quello che succede nella striscia di Gaza e in Palestina. Al di là del lavoro encomiabile di queste persone, che spesso, come dicevamo appunto, rimangono vittime, come giudichi l'informazione che si sta facendo su questo conflitto dal 7 ottobre a oggi? Su questo tema c'è una petizione su protezionegiornalisti.it, che è un pensiero comune sottoscritto quasi da 1000 operatori e operatrici dell'informazione, in cui denunciamo come l'informazione stia completamente sottovalutando e non denunciando il genocidio in atto, in cui si prendono per vere le qualsiasi velina che possa arrivare rappresentata dall'esercito israeliano, come sta succedendo adesso con i rastrellamenti di persone che vengono poi messe nude. È ovviamente molto difficile riuscire a verificare le notizie, perché purtroppo l'accesso ai giornalisti e ai giornalisti viene impedito, e quindi è un tema molto caldo. In altri conflitti le persone, i giornalisti esterni, indipendenti, possono raggiungere territori di guerra, di conflitto, mentre in questo caso no, e quindi diciamo c'è una sorta di monopolio di informazione, almeno che non ci sia appunto chi riesca a seguire, cosa che vorremmo fare anche con questa iniziativa, riuscire a dare una serie di fonti dirette di persone che vivono in quelle terre e che cercano di raccontare quello che sta succedendo, che è un po' l'anello mancante dell'informazione qua, e nonostante questo viene preso per vero tutto quello che viene comunicato. Nel corso della serata verranno presentati anche 3 reportage, giusto? Esattamente, sono 3 reportage realizzati in Palestina questi anni, di Isabella Balena, Claustrofobia Palestine, di Nicola Zolin, del No Life in Gaza, e di Antonio Facilongo Abibi, che ha vinto anche un WordPress, se non mi sbaglio, l'anno scorso, 2 anni fa, un bellissimo lavoro. Quindi è anche un modo per parlare di come la fotografia racconta la vita in Palestina, la vita nella striscia di Gaza, che ovviamente c'è vita, no? La striscia di Gaza di solito se ne parla solamente quando viene bombardata, ma all'interno della striscia di Gaza ci vivono milioni di persone in condizioni sicuramente critiche, ma è anche importante raccontare come si vive nella striscia di Gaza in Palestina, e appunto le storie delle persone che ci vivono.